Ancora, tua madre rompe il cazzo e domani si lavora. Di stare dentro casa stasera non è aria. Ho l'anima bastata ed una birra necessaria. Mi affaccio alla finestra, mi accorgo che fa fresco. Non guarda mamma esco, raccolgo quattro spicci con la ganja nel calzino, la sigaretta in bocca, sono già sul motorino. Il fresco della sera già mi riprende un po' e mi accorgo dello strascico della giornata. No, a modo mio per resistere a sta vita, per resistere, per resistere, per resistere, yeah yeah yeah. A modo mio per resistere a sta vita, per resistere, per resistere, per resistere, yeah yeah yeah. Mi attacco al cellulare che ancora sto guidando. Andiamo a ubriacare, scendi giù che sto passando. Corroscio sulla sella, la Vespa va più piano, ma io mi sento meglio e mi sembra che vogliamo. E sti cazzi di tutto, ci penserò domani, tanto nel rimandare c'ho il primato negli annali. Arrivo in birreria che mi sento a casa mia, ho l'impressione vada via sta cazzo di malinconia. La prima la ricordo, eppure la seconda, poi con la terza birra la memoria si deforma. E questo è il modo mio di curare i cazzi miei, gli amici una birra, due canne, tutto ok. A modo mio per resistere a sta vita, per resistere, per resistere, per resistere, yeah yeah yeah. A modo mio per resistere a sta vita, per resistere, per resistere, per resistere, yeah yeah yeah. Pensa, non è una soluzione, sempre meglio che sta casa ad aspettare un'illuminazione. E lo vedrai, domani a mente fresca risolverai i tuoi guai e tutto ciò che ti interessa. Se non sarà così, preparati una spliff, ascoltati sto beat e dopo mettiti a dormire. Io penso che sia inutile farsi troppe domande, o agisci in modo utile, te ne fotti alla grande. Di vita ce n'è una ed il tempo cola, perciò buona fortuna e dai, è forte ancora.